764. Gelato di Ribes. Ve lo do nel suo genere per un gelato senza eccezione. Ribes grammi 500, zucchero grammi 300, ciliegie more grammi 150, acqua mezzo litro, un grosso limone di giardino. Disfate con le mani il Ribes e le ciliegie, aggiungete il sugo del limone e passate il tutto dallo staccio spremendo bene. Fate bollire lo zucchero nell'acqua per 10 minuti a cazzaruola scoperta per ottenere il siroppo. E quando sarà ghiaccio, mescolatelo nel composto descritto e versatelo nella sorbettiera. Potrà bastare per 7 o 8 persone, servendolo in bicchierini. Le ciliegie, oltre al sapore loro speciale, servono a dare al gelato più bel colore.